notte senza luna, senza arido di vento, nel silenzio della dolce oscurità. Si incamminano dispersi per la strada tra le rocce e la natura, forse ci confonderà. Non ci guiderà una stella, ma il silenzio resta zitto e nasconde una strana melodia che comincia dal salire in lontananza, arriverà dalle viscere della terra, suonerà. Folletti mangia storia, è la notte di luna piena che li risveglierà. E la sua musica ti incanta per rapire i tuoi problemi e riportarci alla pura libertà. Che con canti di chitarre, fisarmoniche stonate, ma accordate con la sola verità. Che con il giorno è sepolta nel covo dei folletti per tornare alla prossima luna piena. Festa per l'arrivo nella piazza del villaggio della banda più stonata che ci sia. Giocolieri e mangiafuoco che ci spianano il passaggio verso musiche di notte e fantasia. Un ubriaco tra la folla avverte il suono di un violino e per primo resta immobile ad aspettare. La gente attorno a lui bagna le anime col vino quando il pavimento scotta, è il momento di saltare ancora. La poesia che si compone vive solo nella notte, perché il sole impertinente graffia il buio e meno sia che il segreto della terra si sprigioni dalle grotte. Viviamo in un'epoca in cui il superfluo è la nostra unica necessità. Triste vita allo straniero che volesse scoprire le ragioni della piccola città. Solo a pochi è permesso di entrare per capire e riferire quale sia la novità. Portami con te nella notte più scura, le ombre buie della sera non spaventano, sai. Portami con te senza rabbia e paura, raccontando una terra da raccontare.